per bassa. Ui. Oh, indubbiamente, ma siete arrivati tardi e sono arrivato tardi anch'io. A Sabellu sarei andato lì dalla mattina, dice che è andata alla grande. E per chi era esercente, per chi era lì a divertirsi, capito? Ehi. Ehi, vabbè. Penso te ne sei un cazzo, va. Sicuramente. La giornata già ci è riuscita, dai. Sì, va. Sì, infatti, però l'affare lo sono pagato un po', perché chi vende birra poi non riesce a chiudere, perché gli esercenti diventano mulisti, cioè gli esercenti, gli avventori diventano mulisti, capito? Sì, lo so. E c'erano persone un po' tranquille, però dici che vogliono sapere, fare, dove siete, dove non siete. Sì, già lo so, ma infatti quella lì è abbastanza ambita, cioè ambita, sarebbe ambita come piazza. Il problema è che non la vuole nessuno per questo motivo, perché pensi che stessi piegando e andando via, perché è arrivata una certa ora, c'è il coprifuoco, capito? Ah, ecco. Non è quello, è che devi accontentarti, o meglio devi prefissarti una cifra. Una volta che arriva quella cifra lì, vedi che la gente inizia a scemare, i bambini ce ne sono pochi, che gli altri stanno rimanendo gli stravaganti, senti le prime stronzate, cioè le prime cose che ti fanno capire che c'è un'aria bassa, e allora pieghi e vai. Tanto c'è quello che faccio, una manovra particolare, che lo sa per calcio, lo sa per calcio, la metà, questo manovra. Buttanelo giù Gianni, avanti che è in ascolto sul 10. Attenzione Claudio Sparviero, se ci sei. Buongiorno Antonio Grosse. Buongiorno Giuseppe Leoncino, tutto bene? Ciao. Potete ascoltando Radio Sassari? No, Sassari di Colto, Radio del Golfo. Radio Golfo, siccome tu sei ancora con il cazzo. No, sono in macchina. È un baramobile, sì. Un segnale, siccome mi sembra il segnale di casa tua. Dove stai andando? Sto bene. Vai, dove stai andando? C'era Gianni, c'era. Ehi, Gianni, ma stavo facendo manovra. Ah, cappa. No, finito. Buongiorno Gianni, doppio ru. Ciao Giuseppe, Leoncino. Vabbè, dove stai andando? Prendermi il giornale. Se sali su, io col caffè. Mi sto andando, mi prendo il giornale e vado su a leggermelo. Allora sali e ti offro il caffè. Antonio, io vedi. Adesso dai, datemi un quarto d'ora, 20 minuti, già lo sai, pure io. Cappa, se mi vuoi trovare sono lì io. Però sì, se sei davanti a me. Cappa. Non è male come ci vedo. Leoncione, ma che dici? Ioi. Ai ai ai. No, se beh, come si è comportata l'antenna con la pioggia? Bene? Me lo tu, guarda un attimino, mi sembra che non ci siano problemi. Capo, ma non ne avevo voglia già. Non mi mancano le risorse, mi manca la gana. Cappa. Vabbè. Tante volte c'è mandroni. Io non è quello, obiettivamente io non la vedo come prova, siccome viene vista molto spesso da molti come prova di forza, questa di avere il segnale potente, di spaccare e tutto, l'importante è far sentire, dai, non è che fossi così negativo prima. Ma non è quel segnale che ti dava questi problemi di fischi, di cose, capito? Io sarei già crollato. Mi dava quel problema, non è quel segnale, Anto, perché come segnale diciamo che arrivavi bene. Adesso ce l'ho qua smontata l'antenna, cioè smontata, la devo ancora smontare, gli devo togliere la vasellina e basta uno straccetto con un po' di benzina, in 2 secondi la togli. Allora, perché la vuoi togliere? Lina, perché l'antenna è in terra adesso, ma cosa ne vuoi? Beh, no, utilizzi. Io ne ho un paio ormai di Ringo, capito, perché anche nell'altro QTH avevo buttato la volta tolta. Adesso secondo come mi prendo l'Energy, anzi secondo come mi prendo un Energy, che è poi la BA27L, ed è quella che metterò un attimino più in alto della Turbo. mi dà la bulldozer che la stava prendendo. Quanto originale? Esatto, una di quelle mi sono preso. Io 27 euro ti ha preso. Ah, gli ho detto di mettermela da parte, adesso devo passare a prenderla. È proprio quella originale, poi quella che anni si chiama B27 non è quella lì. Non è quella, dell'energy è un altro tipo. Ma di Roger. No, ma già è una bomba, guarda, chi ce l'ha ho visto che esce più che bene, perché ce l'ha falsetto, esce molto bene, ce l'ha con pugno e esce molto bene, capito? Quindi va bene. Sì, come antenne vanno bene, ma sono delicate come metallo. No, ma d'altronde pesano 2,5 kg, però li puoi fare, puoi usare qualsiasi tubo per metterle, perché non ha problemi di coso, capito, di peso. Quello sì, ma la cosa mi affutti a me che non avevi problemi di peso, quando poi il primo momento te la butta giù. No, no, è così, è perché ha falchetto che l'ha buttata giù, è sempre con quell'antenna lì, anzi gli manca un radiale e pompa anche di più. E dipende dalla zona dove sei, no, no, bro. Dipende come batte il vento, se è sensibile non ti fa nulla, se invece come Giampaolo che ce l'ha portato, perché è diretta, è normale che ce l'ha portato. Vabbè, ma quello lì anche con la salmastra si la mangia da buio a dubbi, figurati. No, ma non l'ha troncata, l'ultima volta l'ha proprio fatta uscire dal coso, dall'innesto, non so, come ti ho fatto, c'è che innesta poca roba e l'ha fatta uscire da lì, capito? Vabbè, dai, la proviamo, vediamo un attimino. Vediamo, vediamo, dove sei adesso? L'edicola che c'è in via Cosa, là. Via Le Martis, quella zona lì. Un bel che è cresciuto Marcolino, ma io l'avevo visto un paio di mesi fa. Minchia, ha tirato un allungo micidiale. Sì, sta allungando, vabbè, è stato sempre lungo da quando è nato, È stato sempre molto lungo. Prima lo sai com'era, magrino, magrino, si vedevano solo gli occhi quando era piccolo. Aveva due occhi che sembravano due fari. Si vedeva prima gli occhi e poi lui. E siamo andati sempre dalla dottoressa, ci dia qualche ricostituente. No, per le cose ricostituente vedrete che poi tornerete qua a chiedermi di farlo dimagrire. Mica così è stato. Sì, ma che avevate come pediatra? Marisangius. No, perché ce n'è una sotto casa che è abbastanza rinomata. Ui, Giuseppe. Giuseppe si è fermato adesso, Ma tu cosa fai, arrivi? Ti aspettiamo o ce lo prendiamo? Aspetta, c'è stato un break, buongiorno, avanti. Ciao, buongiorno, bulldozer da questa, con la speranza di ascoltarti. Papà, forte chiasso, dove sei Massimiliano? Ottavo, andando ottavo, Pappa di Roger, e beh, ce l'hai già Claudio con le antenne, ne stiamo parlando giusto adesso. Sì, è passato e se l'ha presa la tua, là. Gli altri non li ha prese perché le abbiamo guardate, sono le Grand Play, però quelle grandi, capito, non le piccole, le grandi. Infatti gli ho detto, se c'è qualcuno che le vuole, 30 euro l'una, ce le ho buttate, gli ha avvisato il Claudio. Roger, scusate che non abbassa un attimo. Io sono arrivato a questa città, se vuoi venire dopo l'ora ci prendiamo un altro, non c'è problema. Ciao, ti vediamo. Ciao, buon giorno. Sì, avanti. Chi è? Massimiliano, quindi dai, passo poi a prendermela da Claudio. Non so se passo oggi o comunque in questi giorni, perché ho un po' di problemi di lavoro, capito? Comunque passerò al massimo domani o dopo. Vabbè, gli auguri brava. Ebbè, Anthony. Non c'è problema. Anzi, c'è lui, non c'è problema. Allora, bombolo, buongiorno, ebbè ascoltato. Papà, buongiorno anche a voi. Stavo ascoltando, dai. Cappa di Roger, mi sembra di sentire un break. Avanti il break. La portata, ora break. Non sta uscendo, forse. Ti l'amico, che se è una portante non ne vale la pena. Ma montata là, Anto. Cappa, perché non si sente. Non si vede il segnalone. 25, non so quanto ti stia arrivando io. Sei a picchi di 9.10. Oh, va benissimo, va. IAK, aspetta un attimino, attenzione, sberla. Se ti sento riprendo dopo, se no, buon pranzo e buon tutto, ci sentiamo. Basta Massimiliano, buon proseguo di giornata e ci sentiamo dopo se coincide. Avanti Momolo per i saluti e poi a girare per sberla che mi sembra che sia entrato. Appa. Ciao Massimiliano, ci sentiamo alle prossimine, dai. Ma fatta una sberla dove è montata tu, in una terrazza. Massimiliano a casa sono. Ciao Gigi. Io sono qua vicino a semaforo. Ehi, comunque ero io che non andava di... ho messo un altro microfono, dai, non usciva, andava solo l'importante. Comunque, niente, tutto a posto. Ma posta niente in ordine, 9.10 Radio Super 5, ciao Gigi. L'ho preso oggi? Ma allora faccio a prenderti, va. Attenzione sberla. Come ben sentite a tutti, anche se io non è che stia molto bene. Fa bel segnale, 9.10 Radio 5, guarda un po' come ti sto arrivando. Dammi una lettura di radio, come mi senti con questa nuova antenna? Come se fossi qua a cercarne. Adesso ti rimando il bombolo, bombolo, avanti bombolo. Fa fortuna sberla, mi senti? Cappa, sento abbastanza bene, un po' disturbato. Un po' disturbato. La pioggia è quella, è la pioggia. Poi c'è l'antenna in terrazzino, come hai detto tu. Ui, ui, ui, ui. Ma che c'è nel tuo QTH, sberla? Scusa un po', ma io il linguaggio tecnico ancora non l'ho memorizzato, ripeti. C'è nel tuo QTH. Ma chi ha composto il QRA in questo momento? Fa tu, chiami. Ho capito, quindi cosa devo fare? Chi c'è a casa? Mi vedi chi c'è a casa? C'ho i due nani, avanti, cercava di entrare. Oh, ma sei vediato, stavo uscendo. Ehi, io. Oh. Oh, bam, bam, no. Cambio. Gigi, stai facendo casino, che stai arrivando una bomba, stai arrivando. Ma perché? Gli metto il tappo e non funziona più, cambio. Che magari lo metti in corto, c'è qualcosa che gli crea problemi. Quanti sono, Gino? Oh, Zanto. Quanti sono? Quanti ne hai sotto? No, un barattino solo, Su. Bello, Stai arrivando a picchi 9.30 qua. Oh, Massimiliano. Un altro 48 è questo, cambio. Attenzione sberla. Eccomi, sistema a casa come al solito. Dimmi tutto. E mi hai detto ci sono i due nani poi. Ballerine non ce ne sono. Gabba di Roggero, gabba. E qual è il programma di stamattina? Fare i compiti. E fai bene. Bombolo. Ya, gabba, dimmi tutto. Sei andato a messa. Messa? Mega quanta messa. E ti dato un burugno catanantimi la Iesia. Come dice che facevi il chirichetto tu la domenica mattina? Chirichetto? Io? Ma non saranno. E così mi avevano detto che servivi messa. Chiappa. Magari un chirichetto a rompi le palle, sì, ma a fare un chirichetto io no. Te l'avevi servita, eh? Ma e come mai c'è ancora questo, sei ancora romariato, sberla? Cosa di quella coppia? La coppia? Come mai sei romariato? Come mai c'è ancora raffreddato? Beh, che cazzo ne so io, maledetto. Sa che cosa ti sei preso, pucci pucci. Già non ti bacio, tranquillo. Ne faremo a meno allora, dai. E va bene. Attenzione Claudio Sbarbiero, se ci sei batti un colpo. Cambio. facendo. Cosa vuoi fare, Anto? Tuia? Manco io lo so. Allora, poi attendo, mi guardo la moto GP. Anche se sono un po' ritirato, ma... Perché? Perché cazzo, cioè... Non mi data in mano la ditta tedesca da Ducati. Questa è una vergogna, cosa vuoi fare? A proposito, mi ci deve essere... Attenzione, Gian Maria, se sei in ascolto. Attenzione, Gian Maria. Oh, Claude, vedo un po' se c'è questa cosa, dammi... 230 radio 5 amplificata con quasi effetto elicottero, quasi però. Ehi, cavolo. Ma sto qua che scendo un attimo. Tappa. Non so, ieri hai lavorato, Sì, siamo andati ad Arborea, che c'era la sagra della fragola, però c'era un vento che ci stava portando, allora abbiamo dirottato verso Ozieri. C'era una festa all'ippodromo. Com'è andata? Va benino, considerando che abbiamo fatto due ore e mezzo, va andata più che bene. Bene, almeno non avete perso la giornata. E oggi nessuno da sua parte. Dice Olmedo, però guarda cosa sta succedendo. Ne sta scendendo di tutto. Ma cosa? Una pisciatina? Io sarei andato. Ma infatti adesso è il tempo di rimettere a posto un attimino le cose. Dobbiamo fare un po' di manutenzione, dopodiché ci andiamo. Dice che stasera c'è la sfilata di zombie all'Alghero alle 7. Eccola, di zombie? No, zombie, si truccano da zombie e fanno la sfilata. Ce l'hanno fatta anche ieri sera, dice che nel giornale, io non l'ho letto ancora. Ma ci hanno chiuso la piazza lì, Sono stati davvero, per carità, vabbè. Poi ne parliamo in verticale. Scusate un attimino, mi allontano un attimo dalla radio, riprendi tu. Eccola. Giulia, non ne fanno manifestazioni già. Ti sento peggio adesso però, Non è peggio, ma stai scherzando, sai. E conta che io non parlo del tuo strumento, ma del mio. Il mio è una cagata, Chiaro. Io sto facendo benissimo perché ho anche le stazionarie sott'occhio. Quello che senti questo cos'è? L'eco, Sì, no, vabbè, l'eco lo sentivo anche prima, però un pochettino di disturbo, ma adesso per esempio l'ultimo passaggio l'ho copiato bene. Ma perché mi sono allontanato appena dal microfono, forse. Guarda se va bene così. Cappa. Se mi metto così va benissimo, va. Può capitare che... Appena di modulazione se ne vada, perché se ti allontani, vedi. Però esce bene l'apparato. Esatto, no, sta lontano troppo, non si sento male. Ascolta, volevo chiederti una cosa, aspetta che non male. Aspetta, ci penso. Mi dimmi. Basta che mi è passato di mente, come stavo ascoltando. Attento. Lotte, ci dai per una prova, cambio. Dove ce n'è andato? Dimmi lui. Oh, dammi un controllino, tu fa la cortesia. Se va bene come cosa questo apparato. Sì, io ti sento bene, ti sento. Allora, il segnale 9-10 e la radio è 5, va bene. Va bene, dai, cambio. Ciao, bella. Eccomi, adesso me ne sono ricordato. Volevo chiedervi se conoscevate quella fattoria Barbagia Struzzi, dove ci sono scimmie e altri animali esotici, che ci volevo portare i bambini. No, un negativo, non... No, non la conosco, la verità. Perché dice che è vicino a Nuoro? No, non ci sono mai andato, mai. Sai qualche parco naturale, qualcosa del genere? Ma è un tipo che, non so, per attirare gente si è attrezzato con tutti questi animali, c'è una serie di animali esotici. No, non ho mai, la verità, non l'ho mai sentito, non l'ho. No. L'acquario di Calagonone, lo conoscete? Non ci sono mai andato. Perché sono alla ricerca di qualche posto dove portare bambini quando fa bel tempo. Tipo oggi vi volevo portare lì, ma la piove. Sono piccoline. Due maschi, 7-5 anni. Sarà molti sono. Quanto basta, ecco, per quello bisogna tenerle a freno. Ascolta, non ne sapete altri di posti dove portarle? No, non lo so, no, io no. Non è che giro molto io in questi posti, la verità. Oh, ci penserò allora. Non lo so. Dove si possono portare? Non sono molto, hai capito? Non vado molto in questi posti. KK. Ora ragazzi vi devo salutare perché mi stanno smontando a casa le due bestioline, quindi devo stare un po' presso, se no mi spaccano tutto. Vai, vai, non c'è problema. Ma buon sentito a tutti, Ciao, ciao, ciao. Ciao, te la risentiamo. Ah, ve lo ricordo, Sberla, operatore Edoardo. Ma ciao Edoardo, te la risentiamo. Avanti, binario 10, cambio di nuovo. Avanti. Avanti Luigi. La luce di un posto in due appartamenti, hai capito? E quindi quando sono venuti i vigili hanno fatto il controllo di vedere e sono accorti e gli hanno fatto pagare la multa. Te credo, tu non è che ti puoi attaccare un attimo. E veramente l'altro viene attaccato a me, ma siccome a me queste cose strane non mi... 120-130 ogni mese, io dico, come la sto usando? Il fondo a microonde sto usando, di 10 anni. Mi ha fatto fare un controllo all'ENA, se ci sono accorti che c'era un capo che passava nell'appartamento a fianco, tramite la camera da letto, figurati. E anche mi dubbia di subito tagliato lui. No, gli avevo tagliato loro, non ho tagliato io. A me fregava nulla a me. Io c'era un intercapito e passava il capo da lì, capito? All'altro appartamento che c'era a fianco. Dove c'era una lega che ogni giorno era. Faceva i battussi, faceva. Oh, e però ti sta pagando la multa alla negra, no? E allora? Ma come non l'ha arricciata? Lo sai che furto è quello? Esatto, stanno anche, devo gliasso tutti i buschi mali anche. Non c'è uno come si deve di via San Donato. Avanti, ripigliatela, Sandro. E sono sparito Tonino, si è allontanato, mi pare, Tonino è entrato, sì. Ma Tonino è entrato. C'è Antonio. Non mi sapevamo duare, Antonio, a usare il pop anch'io. No, chi ti sta sovramodulando? Beh, provalo. C'è un chi mi butto 1.000 euro, quindi siamo pari. Io sto usando l'Intec 34S. Andare. E a voglia. Sono dal 2009 qua. Va bene. Pare che stia andando bene la studia, adesso posso anche alzare un po'. Poco fa. Una brucia, questa. Avanti, Sonso. No, dammi l'amico tuo. Che stai dicendo? Cosa che stai dicendo? Mi devi al telefono, dilla. Amico tuo sta chiamando me l'assalto. Era Monti. Credo di essere amico suo, quanto io non sono amico, quanto lui non è amico mio. Faccia calla. Attenzione, ciao Monti, ascolti, sozzo. Ora già mi senti barrato, Gianni. Ma non c'è me l'assalto qua. Pace bene a tutti, anche il cornuto diceva quello. E pigliatela. Energy. Ma chi sa Sirio, pure la radio aumenta con un bello, sai Anto? No, va bene davanti, io pompo l'aria che ti schiaccio bene bene, ti schiaccio. Non ne voglio sapere. Da nessuna parte. Ma sì, no. Grosso è la, per adesso in vendita è la cosa, eravamo se credi o no, secondo me è quella, dipende, guarda, secondo me quella lì è superiore come uscita. Negativo, da catalogo è superiore la cosa, la Mantova Turbo. Questa è a livello costruttivo è migliore, nel senso che c'è la carica protetta dalla campana in plexiglass, l'unica cosa è c'è lo stelo centrale che è molto fine, al contrario invece della Mantova Turbo che ha lo stelo centrale ultimo e i radiali collegati male perché c'è quella specie di passantino che non serve a niente. Quindi qua invece sono pieni e sono abitati, capito? Quindi sicuramente è fatta meglio questa. Io già non credo che sia meglio quella, ma bisogna vedere, Alto. Bisogna vedere, perché molte volte, bisogna mettere tutti e due, tu già ce l'hai anche la Turbo, mi sembra. Come ti sembra a confronto a quella? Purtroppo non le ho mai messe nella stessa condizione, però ad esempio la Turbo era piazzata adesso dove era piazzata prima questa qua, in via Rockefeller, e sicuramente è meglio la Turbo, ma per una questione anche strutturale, chissà perché l'ha preso di più, chi è che voleva entrare? Secondo me quella è migliore, sarà. Ah, c'è la Super LM, è buona, basta piazzarla e ti vede lo stesso come la Mantova. Cucchia se è buona, quella di pompa più della Mantova. Adesso mi sono preso anche la cosa, la via 27, così ne la vieni pure tu. La via 27 la mia è migliore. La Maroggia, ha trovato uno stock Massimiliano e proprio ha trovato quella Intec, quella vecchia, no? Ed è nuova, nel senso è ancora confezionata, gliel'ho presa. Deve rimetterci la diaria della gamba in, però, se vuoi che vali bene, dentro di quelli originali ci mette gli altri. Ed è perfetta, una bomba diventa. Grappa di Roggero. Dovrei avere qualcosa di Grand Plain, dovrei avere, è che anche quella lì c'ha questi radiali che sono messi in maniera un po' becera, con quella specie di platorello da avvittare, i radiali sono messi quando si avvittano nel piede dell'antenna. Tranquillo, già tengono, ce l'ho io ho i radiali tutti in alluminio pieno, e l'altra metà è in vetrovesina, capito? E sono belle anche per essi, non è che siano brutti. E vende parecchio, figurati, te l'ho già detto l'altra volta, tutta un'altra cosa, quasi 80, quando c'avevo i radiali originali, in 40-45 non andava bene. Adesso bisogna che è un bombo, è perfetta, non ho mai provato il VHF, ma penso che ci vale anche il VHF questa antenna, anche perché non c'è un osmetro come filo. Ma comunque adesso come antenne c'ho quasi tutto, assolutamente. Cappa, ma sì, chissà antenne sono per la 27, non paghi di bande. E vabbè, ad esempio la Ringo può essere anche modificata e puoi andare, se non mi ricordo su quale frequenza. Anche la Mantova, ti pare che mi sembra accorciarla appena va in un'altra frequenza, se non mi ricordo. Beh, se la curci sale di frequenza, se la allunghi scende di frequenza. Cappa, no, ma te vanno bene comunque, che caspita, ma che sono appena valide, sono, dai. Poi, la Energy è una buona antenna, solo che ha solo un particolare, che non tiene tanta potenza. Però come l'altro, no, va strutturalmente, cosa, anche se ho sentito una cazzata stamattina, vanno bene perché non è mai scesa una, però tiene poca potenza, solo quello il pecco hanno. Quindi va bene, non è che devi pompare, usa la dinafutti. Si pega, quella che ho io, quando c'è vento si pega. La trovi, proprio si piega, la mia sta scendendo, poi non è attiva, trovi bella fetta. Infatti, stili... Buono. Cappa. Sì. No, ma non vado molto bene, cazzo, qua, la verità. Ciao, Cappa. Se sono già montate. Allora, una ce l'hai tu, una ce l'ha quello di Uzi, e l'altro mi sa che ce l'ha Parchetto, ce l'ha. Vanno bene, vanno come come coso, ecco. Sì, Massimiliano. Ciao Piazza, buongiorno. Lo passo, lo passo, lo passo. E la voglia. Dov'è per parlare? Cosa con la data digitale torretta, ma adesso lo passo, cambia. Dov'è per parlare? Buongiorno a tutti. Dove va questo digitale torretta? Non si è capito niente. Aiuta voi. A voi, a voi, va bene. Ah, già va bene, io sono ancora andato a digitare il torrente, vedo, ma sarà lo stesso in partenza. E fa la direttiva. Lui va, a lui. Io ho Casimo. La pagava il Cavarroggero. Tutto bene? Diciamo che potrò andare meglio. Da tutti. Però credo che può andare meglio, ma il sole sta uscendo. Ma lo so, io qua ho preso, vedo comunque, boh. La Pagliarogero. Riprendi un po' e ti schiaccio poco a poco. I bei gusti, eh? Schiaccio. Grazie. Non voglio fare un po' per far vedere lui. E non può caricare più di tanto con quell'antenna, se carica se la sciuglie. È quello che voi parlate, no? Perché prende 500. E massimo 500. Infatti sono al primo scatto, se attacco gli altri 4 li va la dentella in terra. No, per buon pugno, no, 20, per te. Capito, buon pugno. Ora lo sciogliere l'antenna a me. In due persone ho sciolto l'antenna facendo così Vittorio e Walter. Hanno dovuto mettere gli attacchi nei piedi dorati. Ma io non sono, io sono liscio qua è la posizione, poi sono più vicino a loro, è normale. Antonio Clodo, se mi ascolti di sblattere. Ah, cosa hai detto? Cosa hai detto? Tutto amplificato, non si capiva nulla. Io stavo entrando di sblatteri. Signore! Boh, non ho capito chi era, è uscito tutto. Va bene, bombolo! Ehi, dimmi! dei pomponi addirittura. Forse per queste zone è abbastanza favorevole. Aspetta un attimo, provo a cambiare microfono anche un attimo. Ma come segnale, quando entro il microfono un po' meno, penso che è fortissimo, però lo sento leggermente gracchiare, non so se gli altri lo sentono tutti, ma io lo sento un piccolo gracchiare, ma proprio piccolo sotto la tua modulazione. Va bene, avanti buon tu. E a poco secondo me può subito, ripigliate l'Antonio. Ecco, abbassa un pelino. Giulio. Quindi è troppo allegro sono. Vediamo un po'. Così. Così ti va bene tu? Ti va fastidio così? No, così va bene, no, anche da voi arriva dopo. No, non ci capisce niente. Adesso va bene. Perché questo microfono autocostruito non conosce i limiti, capito? E di legno è una cosa di legno duro. Va bene così. Senta, già è andato che sì. Però ho detto che mandò una bambù in frequenza. A tutto, l'ho detto, non c'è niente da fare, peggio di me. Va bene, dai. Chi è che ti è rimasto? Antonio, vediamo se ci sia ancora. Antonio Globe. Guarda un attimino come sta uscendo questo. Ola. 1, 2, 3, prova, no? Come c'è un po' di eco, questo qua è il DM1000. Cambio. Questo per me è leggermente più pulito. Non è il massimo, però è una buona rilevazione, è forte. Questo, io non parlo di potenza, eccetera. La potenza non si discute, è ultima. Però la chiarezza, la fedeltà della cosa, della radio, non è delle migliori. È buona, sì, questo sì, non lo discuto, però non è il massimo, ecco, non è quella modulazione bella, limpida, chiara, come tante altre ne sento, ad esempio. Con te niente di buono. Diciamo che va bene, dai. Cappa, non so che cosa sta usando lui. Ma questo è un DM1000, cambio. No, Reghizio già lo so con DM1000, ma parecchio. C'è un Mobicom MP45. Ho capito, Antonio, allora metti un bel MB più 5 o più 4, forse anche più 5, mettendo i toni più alti, perché la modulazione è troppo corposa, secondo il mio modo di ascoltare. E penso che per adesso io non so qual è il tuo tono di voce naturale, così, e dunque, ma suppongo che sentendo questo microfono, l'MB più 5 con i toni un po' più alti sicuramente va meglio, perché questo è troppo corposo, capito? Capito? Per me io la sento così, e poi gli altri non lo so. Guarda un attimino se abbasso un attimino l'eco e il mic gain, l'ho preso leggermente abbassato, dovrebbe andare meglio, no? Sì, d'accordo, no, ma io non discuto la chiarezza, io sto parlando della intelligibilità della timbrica, capito? Hai una modulazione grossa, molto, molto spessa come timbrica, capito? Tutto lì, quello che io perlomeno ripeto con questi baracchini, ti dicevo così, poi gli altri magari ti dicevano meglio, o addirittura benissimo, non lo so. Vabbè, è normale, non è dovuta essere dall'apparato, ma sicuramente ci sono termini di miglioramento nel momento in cui utilizzi un MB più 4 o un MB più 5. Corposa, c'era corposa la voce, assolutamente, però se noti la differenza fra i due microfoni sicuramente è così, nel senso che uno dà più acuti e l'altro un attimino meno. Vedremo di fare un po' di esperimenti, dai. Ma guarda, io non ho mai avuto problemi con qualsiasi radio, non sono mai riuscito a provare le HF, però quei baracchini, tutti quelli che ho, sono sempre usciti bene con me, non ho mai avuto nessun problema. Allora, scusate, correggo un attimo che sto facendo una bassa. sapevo che. Allora, premesso che non voglio togliere niente alla tua radio, se mi stai ancora ascoltando, a tu. Io faccio il paragone con quella di Antonio Bombolo. Quella di Antonio Bombolo è corposa, ugualmente la voce, ma è molto più pulita, più bella, più chiara, insomma, ecco. Però diciamo che come timbrica, grosso modo si equivalgono, ma è una timbrica più pulita quella di Antonio Bombolo. Non so se mi hai ascoltato, vabbè, tu casomai mi risponderai dopo che hai fatto la bassa. Avanti Antonio Bombolo. Ecco. Avanti il break. Buonasera, buona domenica a tutti, Giuseppe da questa parte, cappava. Ciao Giuseppe, saluto il ben sentito, ben entrato, avanti. Buonasera, io sono già avanti mi con l'orario. Buongiorno Giulio e buona domenica. Buongiorno anche a te Giuseppe, ben sentito. Ultima radio. Segnale, vabbè, quel servito che sei in macchina, d'accordo. Ci sentiamo. Riprendi ancora a far girare tu, cioè in questo momento c'è Bobo, poi c'è Globe che in quel ricchi si prende e passa. Antonello si è allontanato lo stesso, ugualmente riprenderà. Riprendi ancora Giuseppe. Papa, dove sei Giuseppe? Ciao Giuseppe. Anche se piccolino, perché sono abbastanza lontano, sono riuscito a tirarti fuori, ecco, vieni avanti. Capa, e dove sei Giuseppe? Sono in mezzo ai palazzi, sono su vicino a casa di mamma, adesso come esco vediamo un pochino se riusciamo a sentirci meglio. Capa, un po' sorda è quell'antenna, Ho detto che è un pochettino sorda quell'antenna. In mezzo ai palazzi è quello il discorso, qua sono tutti palazzi alti. Chiappa, non mi convince quella. Non ha molta ricezione. Eppure a Giulio lo tiro fuori bene. Ma io qua ti sento bene, ti sento. Ma a Giulio io lo sento perfettamente. Vabbè, Antonio, l'antenna è diversa, cioè Giuseppe, l'antenna è diversa, questo, proprio almeno la posizione è più valida per dove sei tu adesso, e questo è il discorso. Sì, no, Antonio, io sinceramente a Giuseppe lo sento benissimo, non posso dire che c'è qualche mancanza di radio, niente, no, il segnale vabbè, lasciamolo perdere, perché lui, essendo in macchina, il segnale non conta, però la radio è chiarissima, bella, pulita e anche forte. Avanti Giuseppe. Avanti. Positivo. Buongiorno Natalie, ben sentito. Con Giulio Dollaro, Bombolino, ci dovrebbe essere anche Grode, però dovrebbe essere... si è assentato un attimino, dai, riprendi per chi vuoi tu, Natali. Positivo Natali, già va bene, è importante sentirti sempre, mannaggia. Avanti Bombolino. Forse non ho sentito la cosa. Ciao Natalino, salutoni. Oggi ti sento peggio degli altri giorni. Natalino, non so se puoi migliorare la radio perché non capisco quasi niente di quello che dici. Il filo a quel valore basta. Bisogna migliorarlo, ma purtroppo lo sappiamo com'è la situazione, dunque non possiamo pretendere più di tanto. Bombolino, sei rientrato? Mi stai chiamando, Giulio? Sì, appunto, ti stavo chiamando perché probabilmente c'era Natalino e forse aveva lanciato a te, ma siccome io non lo sento bene, allora non ho potuto capire più di tanto, hai capito, Bombolino? Io vorrei sapere perché non mi senti bene, Vorrei sapere perché non lo senti bene, Giulio. Adesso in quest'ultimo passaggio ho migliorato la situazione, sicuramente. Natalia, adesso ho migliorato. L'ultimo passaggio che hai fatto, basso, ma sono riuscito a capire quello che dicevi. Perché prima eri tutto sporco di QRM, capito? E per quello, Natalia, riprendi, vai. Ho capito. No, sì, sì, va bene così, allora, chiusi. Sì, eccolo qua. Ebbene, anche qua Natalino ha migliorato dal giorno alla notte, Natalini. Adesso è tutto ok. Ma dove sei, Giuseppe? Verando, la pizza, ho detto che qualcosa fai, Marcello, se non te ne accorgi. Appagata, riprenditela, Bombolini. Dove sei che adesso mi stai arrivando forte? Ma io ti sentivo sempre, non ho nessun problema, non ho per ascoltarti. Anche poco fa negli impalazzi, nel coso, non ho avuto nessun problema. Positivo, adesso sono qui al monte. Ma ti ascolto benissimo, sei 9:20 a Radio 5. Grappa, ma lo sai che c'è veramente bene quella radio? O Giuseppe? Va bene. Ma Giulio? Ok, lo prendo io, sì, mi ero allontanato un attimino. Sì, Giuseppe esce molto bene, una bella radio, bella, chiara, pulita e potente soprattutto. Avanti, Natali. A me mi ascolti basso basso, mi ascolti. O giù. Ti ascolto basso, però hai chiarificato la modulazione. Va bene così, ti sento. Il segnale va bene, non te lo dico nemmeno perché lo sai che non ce l'è, però la radio adesso riesco a capirla, eh? Io ho capito. No, prego, va bene. Aspetta un attimo. Ok, lo prendo tu, scusami un attimo, mi assento un momento. Che devo mangiare qualche cosina di dolce. E poi mi vengo lì. Ho detto, qua Santiago 1 è Natalino. Ma Giuseppe! Sì, brava. E allora? E allora, amici, qua siamo Bombolini. Ma sempre più vicino, se ti sento un bel forte adesso. Al monte! Sei quasi a fondo scala, sì. Aia. Gaffa. Hai visto che tempo, in settimana, sole che spaccava il sederino ai passeri in volo, adesso che siamo liberi, niente mare. Giuseppe, innesco c'è adesso, mi stavi dicendo che c'era un innesco. No, adesso non c'è più una palina di innesco. Ok, va bene, là. Anda bene mera. Adesso facciamo impazzire lo smitter di Bombolino, vediamo un po' a quanto gli arrivo. Sai cosa mi dispiace? Che non ce l'ha lo smitter, se no te l'avrei rotto io lo smitter. Ma se no che sei a fondo scala, sì. Ciò che andiamo, Bombolino, facciamolo rullare questo baracchinetto. Hola! Adesso anche attenuato si a fondo scala, eh. Gappa, gappa, anda bene vera. Dove sei che non ti vedo? Dove sei? Mannaggia. Oh, io. Ma se mi dasi una magna oggi? Ma non sei passato qua? No, negativo, Bombolino, ancora no. Che gaffa, è capito che sei a fondo scala, sì. Sei un bel forte. Già va bene, e bene Natalini. Ma azzurro sì. A me stai dicendo a tutto. Via, ho detto da solo sì. Passa due minuti, cara. Hola. Adesso come ti sto arrivando a tutto. Come? Guarda come rulla lo smitter. Ti fuci dai chi bisogna, ma va fattino, vabbè. Fatti con un orinarimi, ma te ne vai, ma però. Sì. Attenuato più, Quanto ti sto arrivando? Sì, tutto a fondo scala, sì, no. Il minimo sta andando in saturazione. è che non so a Gigi, sennò provi a fare una rollata. Ragazzi, è bene, vado da mangiare. Dimmi una palì, dai. Hola, attenzione Tindolino. Sia, o meglio di che regione sia, non è comunque sardo. fosse difficile o meno, ma non sa neanche dove c'ha i piedi questo qua. Perché ne avevi dubbi? Io non so, Josh. Però l'ultima parola aspetta sempre a loro, quindi. Siete in mano a loro. Credo che dica, non lo so molto. Io, fortunatamente, ne sono uscito vincente nel 1993, ma dandoli oggi sicuramente sarei stato perdente alla grande, perché è un discorso che non fa una piega, capito? Loro vogliono determinate cose e allora facciano quello che vogliono, a me poco mi interessa, ma io sto lì a battagliare con loro, capito? Ma vabbè, tanto ne lo esci, riprendi e io rimango in quei X. Sono, ripeto, sto tutta la sera in radio e non è che ne abbiamo molta voglia. Mi metto le partite, mi guardo un po' le partite e mi rilascio un pochetto, al limite ci sentiamo più tardi, stasera, si coincide, insomma, non lo so, vedete voi. A frappi, a frappi. Guarda che l'antenna tua è qua, anche quando vuoi, non c'è problema. Sì, me l'ha detto Massimiliano, però mi ha detto anche che le altre non erano tutte via 27, nel senso che ce n'era una forse, che è quella che hai preso poi. Stavo dicendo, stasera se vuoi uscire, nel senso con Anna, se vuoi portare Anna fuori, guarda che c'è una festa ad Olmedo, anche se non so se il tempo tenga, perché è un po' così, è un po' incerto, lo vedo un po' strano come tempo, e comunque sappi che c'è quello. Riprendi Pomponio. Ah, ascolta, ma ti stavo dicendo, ma è imbustata, è tutta, cioè è intonsa. È dentro la busta, è nuova, è imbustata, c'è anche il prezzo attaccato, figurati, che è molto più alto di quello che ha detto lui. Comunque, è imbustata, non l'ho neanche aperta, io non sono problemi miei, gli altri li ho controllati, sono via 27, però GP. Grand Prix, quindi non mi interessa. Questa ce n'era una, l'ho presa per te e te la prendi tu. Poi se te la vuoi vendere te la vendi tu, non sono problemi. Ma ci vediamo la promessa a te, quindi io l'ho portata per te. Va bene? Ma di Roger, no, assolutamente, sul prezzo che mi ha fatto è ottimo. Volevo sapere se era una, l'avevi scelta o meno, però mi stai dicendo che appunto c'era solamente quella, le altre erano tutte Grand Prix, quindi cosa c'è scritto? 5 ottavi, quindi quella lì è la 5 ottavi con i radiali, con i tre radiali, no? Yes, sì, questa è la 5 ottavi, le altre sono tutte in quarta onda, tipo Grand Prix. Quindi dovrebbe essere come quella che c'ha Pomponio. Sì, dunque era la sua con i radiali originali. Ah, Roger, dai. Così c'era qualche cosa, anche Marchetto. Dato che era Marchetto non viene caduto un radiale. Perché il sistema di ancoraggio non era i migliori comunque. Va bene perché la devo mettere in un palo abbastanza alto, se non voglio controtirantare, quando ci metti 2,5 kg d'antenna va benissimo, se inizi a salire devi controtirantarla e c'è sempre un problema di cosa, del fatto che si possa piegare il palo. Riprendi Pomponio. Parla della Gerami come antenna, sto dicendo, la puoi tranquillamente salvare da solo col palo in mano, come ho fatto io. Ho avuto Giuseppe Lincini, è rimasto male, ma quanto pesa quell'antenna? Ho detto guarda, col palo pesa sì, non pesa da 3 kg, non di più. Ma infatti l'unica cosa, agli agenti meteorologici non è che risponda molto bene, nel senso che secondo il vento che tira te la trocca in due, comunque già va bene lo stesso. Cos'è che ti sta preparando la tua 50 Alessio, da mangiare mi intendo? Oggi c'è il ravioli spezzottino. Il codicino, lo spezzottino che sta facendo. Cava. Siete duelli cuore a cuore. Sì, siete a scupi. Meno male. Sono immaginato tutto lo spezzottino. Sì. Scupi come sta? locale e vado a lavorare, sento che abbaia perché se si è attaccata la porta, pensa che io vada a prenderlo ogni mattina, capito? Adesso sono già 2 giorni che non sono sceso. Perché dove stai lavorando? Al comune sto lavorando. Guarda, quello che faceva Giuseppe. Stiamo facendo posizione del campetto di calciatore via San Paolo, quello che c'è vicino a Claudio, tagliando erba e rifacendolo a nuovo. Qui ci abbiamo da fare Milano 26, quello di via Milano, il campetto di calcio, tagliata di lavoro, ho visto il comune. No, quindi con le cespugliatore, sì. Sì, c'è un espiratore, sembra un vibratore, sembra. L'altro già è abbastanza buono, ogni tanto già lo uso, non è sempre. Siamo in 5, siamo, cosa? A me già mi va bene, taglia l'erba, toglie l'erba, non me la frega nulla. C'è espiratore agli altri, non sa che magari, già c'è poca di pochi niente, intanto, in mezzo a quell'erba. Di tutto c'è bottiglie di vetro, e quando si così senza mascherina è pericoloso, capito? E quanto è al mese? 300 so. E al giorno di ore? 3 ore. No, vediamo bene. Ma è tutti i giorni? No, 3 volte a settimana. Quindi sono 12 giorni al mese, 36 ore al mese. 43 sono, insieme, se non ricordo male, c'è scritto nel foglio, 43-46 ore mensili. C'erano tutti 2 mesi, mi pare che sono, non mi ricordo adesso. 46 ore. 46. Vabbè, già va bene. Aspetta un attimino, arrivo subito. Ciucucciu, dopo la preparazione che c'è stamattina. Adesso chiudo così saldo che ce li ho già affacciata. Ah, ok, dai, non c'è problema.